X24, la storia. Teheran, 4 novembre 1979. Centinaia di studenti islamici occupano l'ambasciata americana, prendendo in ostaggio il personale diplomatico. È l'inizio di una crisi senza precedenti. Per l'America sarà una sconfitta politica e militare. Per il mondo, la scoperta di una nuova forza rivoluzionaria, l'Islam integralista. Rieccoci su Radio 24 con la seconda parte di quella storia che abbiamo iniziato a raccontare ieri. Oggi ricordiamo ancora quella crisi diplomatica che durò 444 giorni. In ostaggio ci sono ancora 52 persone, 52 americani che lavorano all'ambasciata americana a Teheran. Siamo il 24 dicembre del 1979. Sono passate 6 settimane dal momento del sequestro. Natale 1979. A 6 settimane dall'inizio dell'occupazione dell'ambasciata, gli ostaggi e i loro sequestratori hanno ormai capito che la crisi non si risolverà in breve tempo. Lo Shah ha lasciato gli Stati Uniti, è a Panama, ma gli studenti continuano a chiederne il ritorno in Iran per poterlo processare. A Washington, nel frattempo, il presidente Carter deve ammettere che tutti gli sforzi diplomatici e le sanzioni non sono riusciti a convincere colui che più di tutti si oppone al rilascio dei prigionieri, l'Ayatollah Khomeini. È il 24 dicembre del 1979, questo il suo discorso alla vigilia di Natale. In questo momento 50 americani sono privati della libertà, sono privati di ogni gioia. Sono privati degli affetti, della presenza dei loro familiari. E in questo paese ci sono anche 50 famiglie americane che non potranno vivere il clima di gioia, di luce e di felicità del Natale. Niente lettere, niente telefonate, niente di niente. Non capisco di cosa abbiano paura quegli studenti. Perché non permettono che gli ostaggi contattino almeno le loro famiglie per far sapere che stanno bene e che non viene loro fatto del male? Voglio il mio papà a casa. Questi sono gli appelli disperati dei familiari degli ostaggi. Intanto è arrivato il giorno di Natale e il 25 dicembre da Teheran giunge un invito a 3 sacerdoti americani perché facciano visita agli ostaggi. Uno di loro è il pastore protestante William Sloan Coffin, che incontra uno degli ostaggi a Teheran, Barry Rosen. Volevamo semplicemente provare a portare un po' di gioia a delle persone che ne avevano disperato bisogno. Poi ci dissero: noi non l'avevamo richiesto, ma quando l'invito è arrivato ci è sembrato ovvio accettarlo. Dissi: prendiamoci per mano e preghiamo. Lo studente che fino a poco prima ci aveva creato un mucchio di difficoltà adesso teneva con la mano destra un Marine e con la mano sinistra un altro Marine. Per un momento mi sembrò davvero che fra noi fosse disceso lo Spirito Santo. Sia che apparteniamo al popolo iraniano che a quello statunitense, questa notte dobbiamo appartenere gli uni agli altri. Sulle guance di quel leader studentesco, prima così duro e ostile, cominciarono a scendere le lacrime. E non poteva asciugarsele perché appunto teneva per mano 2 Marines. Prima di Natale, il reverendo Sloan Coffin era andato a trovare mia moglie. Quando mi vide, mi sussurrò in un orecchio che Barbara e i bambini stavano bene. Lo riconobbi subito. Questo deve essere il padre del bambino che ho incontrato pochi giorni fa. Gli ho stretto la mano e gli ho detto: a lei devo consegnare un regalo più bello. Le devo dare un abbraccio da parte di suo figlio. Tutto questo suscitò in me sentimenti molto contrastanti. Da una parte ero felice che stessero tutti bene, ma dall'altra ero anche molto depresso. Da un certo punto di vista fu quasi controproducente. Io volevo conservare dentro di me l'odio, la rabbia. Questo messaggio di amore e di speranza, invece, avevo difficoltà ad accettarlo. Un anno e 2 mesi, tanto durerà la prigionia degli ostaggi americani in Iran. Un tempo lunghissimo che per gli ostaggi, naturalmente, sembra non finire mai. Un tempo lunghissimo che crea molte difficoltà anche di convivenza tra gli stessi ostaggi, come raccontano i protagonisti di questa drammatica vicenda. I funzionari statunitensi presi in ostaggio dagli studenti iraniani sono Kevin Hermening e Charles Scott. Inevitabilmente, dopo qualche settimana, cominciamo a darci sui nervi gli uni con gli altri. Il fatto è che quando passi così tanto tempo, quando stai 24 ore su 24 con qualcuno, finisce che non lo sopporti più. Ero chiuso in una stanza con altre due persone e dovevamo stare tutto il giorno su un letto. Dopo tutto quello che avevo passato può sembrare molto rilassante, ma dopo un po' non ne puoi più, senza contare che non potevamo parlare né fare altro. Su Radio 24 stiamo raccontando la crisi tra Iran e Stati Uniti, iniziata nel novembre del 79. Rieccoci su Radio 24 con la crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran, iniziata il 4 novembre del 79. Siamo ai primi mesi dell'80, iniziative e tentativi di negoziatori si susseguono, americani e iraniani si incontrano in gran segreto ed elaborano i piani più diversi. Ma la sorte degli ostaggi continua a essere sempre nelle mani di un uomo soltanto, l'Ayatollah Khomeini. Gli ostaggi restano in Iran vittime di una crisi che sembra senza soluzione per loro. Per gli ostaggi, dopo la sorpresa della cattura, è il momento della grande paura. Ascoltiamo ancora l'ostaggio Morehead Kennedy. Le persone, capisci quanto hanno paura dall'odore che emanano. Quando una persona ha paura, puzza. Un giorno ci hanno portato in una stanzetta. Eravamo in tre. Là dentro si respirava l'odore acre e terribile della paura. Eravamo convinti di essere nella sala di attesa prima di essere giustiziati. Siamo al 92esimo giorno della crisi, è il 4 febbraio del 1980, così il racconto degli ostaggi Kennedy e Scott. La porta si spalancò ed entrarono delle guardie con il volto coperto. Avevano fucili e armi automatiche. Ci portarono fuori e ci misero in fila contro il muro, con le braccia e le gambe divaricate. Ci fecero spogliare e ci lasciarono in mutande. Camminavano avanti e indietro e ogni tanto ci tiravano l'elastico delle nostre mutande. Ci dissero di poggiare le mani contro il muro e di non voltarci, mentre loro facevano scattare i grilletti delle loro armi. Ti senti una serie di click. Click, qualcuno che capiva il persiano meglio di me riconobbe l'ordine per il plotone d'esecuzione. Azergan, puntate. E poi Adavsho, mirate. E poi niente. In quei momenti pensi, il prossimo rumore sarà quello del proiettile che entra nel mio corpo. Poi tornavano e ricominciavano la sequenza della finta fucilazione. L'avranno fatto per 25-30 minuti, senza mai dare il comando del fuoco. Uno dei nostri, un militare, si voltò e disse: «Bastardi, se avete intenzione di spararmi, dovrete spararmi davanti, non alla schiena». Loro continuavano a ripetergli che doveva girarsi, ma lui niente, li provocava a muso duro. Alla fine ci riportarono nelle nostre piccole celle. Ricordo che mi misi ad urlare per la gioia. Avevamo vinto, li avevamo sconfitti. Non ci eravamo comportati da vigliacchi. Questo era molto importante per me. Ma in questa crisi c'è un altro ostaggio, un ostaggio che non è a Teheran, ma che è anche lui in qualche modo nelle mani degli iraniani. Il suo nome è Jimmy Carter. Il suo mestiere, il presidente degli Stati Uniti. A marzo 1980 Carter è con le spalle al muro, stretto tra l'intransigenza di Khomeini da una parte e la frustrazione dell'America dall'altra. Il presidente Carter deve prendere delle decisioni difficili. Il capo dello staff della Casa Bianca, Hamilton Jordan, ricorda così quei giorni. Da subito Carter ordinò di studiare la possibilità di un'operazione militare per liberare gli ostaggi. Nel frattempo, una volta ci veniva detto che li avrebbero rilasciati, e poi invece che non li avrebbero più rilasciati. Il Pentagono cominciò a mandare dei rapporti. Dicevano che il complesso dell'ambasciata era tenuto sotto controllo da parte di nostri agenti a Teheran. A quel punto cominciammo a elaborare un piano per la liberazione degli ostaggi. L'impresa appariva difficile, ma non impossibile. 1 aprile 1980. Mentre il senso di frustrazione degli Stati Uniti è ormai al punto di rottura, in un discorso il presidente iraniano Bani Sadr promette che gli ostaggi saranno consegnati al governo, che provvederà a liberarli.

Per gli iraniani a questo punto nessun dialogo è possibile con gli Stati Uniti, come racconta il leader studentesco Ibrahim Azargadeh. Ai nostri occhi, il tentativo americano di attaccare il nostro paese era un fatto molto grave. Non era paragonabile a quello che avevamo fatto noi. Attaccando il nostro paese, gli americani avevano violato le leggi internazionali. I loro aerei avevano invaso lo spazio aereo di uno Stato indipendente. Tentavano di giustificarsi dicendo che si trattava di un'azione umanitaria per liberare gli ostaggi. Ma la verità è che quella missione era un'aggressione a tutti gli effetti. La prima conseguenza del fallimento americano è che nel giro di poche ore gli ostaggi vengono divisi e rinchiusi in località segrete sparse per tutto l'Iran. Per 3 mesi gli ostaggi vengono tenuti in prigioni lontane e improvvisate. 27 luglio 1980, Reza Pahlavi muore al Cairo. A Teheran, tuttavia, i negoziati sono in fase di stallo, anche se i sequestratori ormai sono stremati quanto i loro ostaggi. È bella l'immagine di noi come ostaggi dei nostri ostaggi. Ma noi avevamo un obiettivo umanitario: difendere l'interesse della nostra nazione. Gli ostaggi stavano pagando per le colpe di un governo le cui mire loro, poveri diavoli, forse nemmeno condividevano. Gli ostaggi erano strumenti nelle mani del governo americano. E noi eravamo gli strumenti del nostro paese. A volte mi facevano per ore intere domande sugli Stati Uniti. Alcuni chiedevano: pensi che quando questa storia sarà finita potrò venire a studiare negli Stati Uniti? E io: ma certo, ma quando è che finisce questa storia? Io rimasi con gli altri in quel covo di spie. Non avevo nessun rimorso per quello che stavo facendo. Anzi, ero pronta ad andare avanti, anche per un altro anno. Nutrivo un odio profondo e totale nei loro confronti. Ed era un odio ricambiato. Probabilmente li odiavo perché mi sentivo tradito. Ci trattavano in modo inumano, mentre io, degli iraniani, avevo sempre avuto un'immagine diversa. Un odio profondo verso gli iraniani. Questo è il sentimento dell'impiegato dell'ambasciata americana a Teheran, preso in ostaggio dagli studenti il 4 novembre del 79. È una crisi diplomatica tra i due paesi, gli Stati Uniti e l'Iran, una crisi senza precedenti. Su Radio 24 torniamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci su Radio 24 con quella crisi internazionale innescata dall'attacco all'ambasciata statunitense da parte degli studenti iraniani. Siamo nell'estate dell'80, dalla cattura degli ostaggi sono passati 9 mesi. Gli iraniani che tengono prigionieri gli americani cambiano di nuovo la loro tattica. Una volta ancora gli ostaggi vengono trasferiti e la destinazione è di nuovo Teheran, nel carcere di Comité, un carcere durissimo che proprio i funzionari americani presi in ostaggio ricordano così. Abbiamo trascorso 6 mesi in una prigione iraniana, una prigione vera e propria, con i muri grigi, le sbarre d'acciaio e belle porte pesanti. Stavo sempre disteso per terra, su un materassino di gomma alto 1 centimetro, senza avere niente da fare oltre che andare in bagno. Poi all'improvviso ho sentito un urlo da gelarti il sangue, proveniente da chissà dove. Eravamo in 4 nella cella. Ci siamo svegliati e ci siamo guardati negli occhi. È stato uno dei giorni più terribili della mia vita. Stavano torturando qualcuno e la cosa andava avanti senza sosta. Ma se per gli ostaggi americani chiusi nella prigione del Comité i giorni sono scanditi dalle urla delle torture e dai piccoli riti quotidiani, la storia intanto fa il suo corso. Il 22 settembre dell'80, dal momento della presa degli ostaggi, sono passati 11 mesi. L'Iraq di Saddam Hussein, in quel momento, invade l'Iran. È l'inizio di una delle guerre più sanguinose del Medio Oriente. Gli ostaggi naturalmente non sanno nulla, ma proprio la guerra tra Iran e Iraq per loro sarà decisiva. Infatti, per fronteggiare l'esercito di Saddam, Khomeini ha bisogno di armi.

dei sogni più ricorrenti in quei mesi era proprio il momento della liberazione. Sognavo di arrivare all'aeroporto. Quel viaggio in sogno l'avevo già fatto migliaia di volte. Ricordo di aver corso alla velocità della luce attraverso due ali di folla che ci spintonava, ci tirava addosso oggetti, ci dava calci e urlava Yankee go home. Gridavano Margba America, morta l'America, e ci sputavano addosso. Faccio per pulirmi la faccia da quello sputo e vedo uno che mi fa dei gesti. Era uno steward algerino, ma per me era uno che mi stava dicendo: sei libero. Gli ostaggi corrono a bordo dell'aereo che li porterà a casa, ma a bordo per loro c'è una sorpresa. Per la prima volta, infatti, da mesi si ritrovano di nuovo tutti insieme. Ritrovare tutti gli altri è stata una gioia incredibile. Ci siamo gettati gli uni fra le braccia degli altri. Ci abbracciavamo, ci stringevamo la mano. Avevamo gli occhi pieni di lacrime. Abbiamo cominciato ad abbracciarci, a baciarci, a piangere. Una gioia incontenibile così si prova solo poche volte nella vita. E il 20 gennaio dell'81 a Washington, alla Casa Bianca, Jimmy Carter sta per passare le consegne a Ronald Reagan. Nelle ultime ore, nell'ufficio Vale, l'ex presidente aspetta notizie dall'Iran. Momenti concitati che riviviamo attraverso il racconto degli uomini del presidente. Jordan Hamilton e l'assistente alla Casa Bianca per l'Iran, Gary Sick. Gli aerei sono sulla pista di decollo. Significa che a bordo ci sono gli ostaggi? Non lo so. Non lo sa. Lo comunicheremo quando saranno atterrati, ma non so se faremo in tempo. Era quasi surreale. Era incredibile quello che ci stava capitando. Una vicenda che aveva occupato la nostra vita per un anno, ora forse si stava per concludere. Non sapevamo quale sarebbe stato l'esito finale. Sapevamo che l'accordo era stato fatto, che gli iraniani l'avevano accettato, che il denaro era stato trasferito. Era stato fatto tutto a dovere. Adesso aspettavamo un segnale che loro avrebbero rispettato i patti. Gli ostaggi erano sull'aereo, che era sulla pista di decollo a Teheran. Di questo parlavamo con Carter mentre andavamo alla cerimonia di insediamento del presidente Reagan. Anche se, ovviamente, avevamo sperato che venissero liberati sotto la nostra amministrazione. Dopotutto li avevamo tirati fuori noi, ma purtroppo questa soddisfazione ci fu negata. Io, Ronald Reagan, giuro solennemente che adempirò con fedeltà al mio incarico di Presidente degli Stati Uniti. Aspettarono che il Presidente Reagan pronunciasse il giuramento e dopo 5 minuti liberarono gli ostaggi. Mentre volavamo nello spazio aereo iraniano, eravamo molto tesi. Avevamo paura che magari un pilota folle avrebbe abbattuto il nostro aereo. Poi il comandante dell'aereo annunciò: stiamo lasciando lo spazio aereo iraniano. Solo allora ho capito che eravamo davvero liberi. Però poteva essere solo un sogno. Ci offrirono dello champagne e niente male. E io, in solitudine, ho brindato a me stesso. Mi è giunta ufficialmente la notizia che l'aereo con a bordo i 52 ostaggi americani ha lasciato lo spazio aereo iraniano per la prima tappa del viaggio di ritorno e che tutti i 52 ostaggi sono vivi, in buona salute e liberi. Dopo 444 giorni finalmente l'incubo è finito, ma per Jimmy Carter è finito con un giorno di ritardo. Ciò nonostante è lui, il presidente uscente, che come inviato del presidente Reagan accoglie in Germania l'arrivo degli ostaggi. Per me la Germania fu una delle cose più belle che avessi mai visto in vita mia. Arrivai a Wiesbaden senza sapere nulla di quello che stava succedendo in America. Non ne avevo idea. Per prima cosa, volli telefonare a Barbara e ai ragazzi a casa. È stata una di quelle cose che... Come fai a comunicare quella sensazione di amore e di smarrimento da così lontano? Ci ritrovammo tutti insieme un'ultima volta per andare a trovare gli ostaggi. Eravamo eccitati, ma anche un po' nervosi, tesi. Ci fecero delle domande imbarazzanti, ma fu lo stesso un momento emozionante. Molto emozionante. In quella stanza c'erano persone che odiavano Carter. Eravamo tutti rispettosi, perché si trattava pur sempre di un presidente degli Stati Uniti. Gli dovevamo un enorme rispetto. Ciò nonostante, per molti di noi era anche l'uomo che aveva contribuito a quello che ci era accaduto, o che almeno era corresponsabile di quella situazione. Carter si aspettava che lo ringraziassimo per averci portati fuori di lì, ma per noi era lui che ci aveva messo in quella situazione. Detto questo, tengo a sottolineare una cosa. Dobbiamo la vita a Jimmy Carter. Quando scesi dall'aereo, lui ci abbracciava tutti e tre e tutti piangevamo. Non c'erano parole. Fu come un bagno d'amore. Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Iran. Ecco, tu eri in Iran durante quella crisi, quel periodo, insomma. Sì, andai in Iran nell'estate del 1980, esattamente un anno dopo la rivoluzione. E c'era già stato il sequestro degli ostaggi all'ambasciata americana. Feci un lungo viaggio da Milano a Teheran con uno studente iraniano del Politecnico di Milano, ma la cosa molto dura che io mi ricordo fu che quando tornai indietro, eravamo alla fine di agosto, i primi di settembre, 20 giorni dopo questo mio amico Mohammed dovette partire per il fronte perché era scoppiata la guerra in Iraq. E com'è finita? È vivo? Purtroppo la questione non è finita bene, perché lui tornò vivo dal fronte, ma poi finì ucciso nelle faide che opposero sanguinosamente le varie fazioni iraniane di quegli anni. Senti, ma l'Iran da quella rivoluzione com'è cambiato? Enormemente. Quando arrivai io in Iran, naturalmente ero giovane, avevo appena compiuto 24 anni, quando tornai, tra l'altro, era difficile anche capire che cosa veramente accadesse. Era una rivoluzione, mi spinse la curiosità di vedere appunto come era fatta una rivoluzione. E che ricordo hai di come è fatta una rivoluzione? Beh, straordinario, ricordo le masse, le grandi manifestazioni, che poi sono ritornate nel 2009, quando ero a Teheran per l'Onda Verde, e quella massa di persone che protestarono in piazza mi ricordarono proprio quelle della rivoluzione. Ecco, dopo questo accordo di questi giorni fra gli Stati Uniti e l'Iran, resta qualcosa secondo te di quel momento, oppure la trattativa ha superato completamente quei ricordi? Guarda Giovanni, è la cosa di questa, il paese è cambiato così enormemente che ti vorrei dare un dato che mi sottolineava uno studioso iraniano. L'Iran ha 75 milioni di abitanti, 50 milioni sono sotto i 34 anni, cioè non erano neppure nati quando c'è stata la rivoluzione. Si tratta di un'intera generazione che non ha vissuto l'utopia comunista, l'esportazione della rivoluzione, ed erano pure dei bambini quando c'era la guerra. E quindi potete immaginare. Quindi è un nuovo mondo completamente diverso, non resta niente nella memoria degli iraniani di quel momento. No, resta molto, perché ci sono i simboli del regime, i simboli del potere, si studia la storia, sì. E chiaramente, no? Però i giovani iraniani di oggi vivono in un mondo che è più vicino al nostro che non a quello di Khomeini, questo non c'è dubbio. Ecco, ma all'epoca gli ostaggi erano tutti considerati spie? Ma guarda, la questione degli ostaggi fu, e io ho parlato tra l'altro con diversi amici iraniani che allora parteciparono alla presa degli ostaggi, che poi furono tra l'altro tra i protagonisti dell'Onda Verde nel 2009, cioè della protesta, disse fu probabilmente uno dei più grossi errori che facemmo allora, cioè quello di inimicarci l'America. Secondo te, da questo accordo si accende una luce di speranza oppure no? Per me sì, e lo dimostra il fatto che stamattina all'alba erano ad accogliere centinaia di persone il ministro degli esteri Zarif che tornava da Ginevra, e si rafforza il governo di Rouhani. Certo, le resistenze interne ad arrivare a un compromesso storico con l'Occidente sono ancora molto forti da parte dell'ala dura e pura del potere, quindi dobbiamo in qualche modo guardare con molta attenzione quello che avverrà dentro l'Iran. In ogni caso, in poche settimane si capirà se rispetto all'uranio arricchito per fare la bomba atomica ci sarà un'inversione di marcia oppure no. Sì, abbiamo 6 mesi davanti per verificare se il regime iraniano osserverà i patti, e questi 6 mesi servono a costruire quella fiducia che non c'è stata negli ultimi 30 anni. Grazie Alberto, grazie mille. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.